buonasera a tutti. Questo splendido mood, queste splendide note ci introducono nel mondo di un grandissimo del jazz, forse di uno dei pilastri del jazz cosiddetto moderno. Buonasera da Radio Cerrano Web, e questa sera ci spostiamo completamente su timbri, suoni e soprattutto su una musica che ti prende il cuore, quantomeno a me fa questo effetto. Stiamo parlando di Bill Evans. Devo dire che è uno dei miei artisti preferiti, ma credo che tutti i cultori di questo genere musicale, insomma, attribuiscono a questo splendido e sfortunato artista un ruolo importante all'interno della grande famiglia del jazz. William John Evans, poi soprannominato Bill Evans, nacque a Plainfield il 16 agosto del 29 e purtroppo morì a New York il 15 settembre del 1980. Quindi l'anno scorso è stato celebrato il 40° anniversario della sua morte. È un grande pianista e compositore, naturalmente statunitense, che è stato un po' quelli i veri, diciamo, puristi del jazz gli attribuiscono, no, questa invenzione di un trio particolare, e per questo viene considerato uno dei maggiori esponenti di musica jazz dopo la Seconda Guerra Mondiale. E indubbiamente stiamo parlando di un autore che cambiò un po', o quantomeno portò sul palcoscenico o su nei club, ovunque lui suonasse, portò la sua ricerca di un suono intimo, di un suono veramente che sfiorasse le corde un po' dell'animo. Quindi non un jazz alla disperata ricerca del virtuosismo, come molto più spesso capitava in quel periodo, ma anche dopo, ma piuttosto veramente una ricerca di corde diverse, di sonorità diverse. E come abbiamo detto, Bill Evans nacque a Plainfield nel New Jersey, e da una coppia un po' assortita, Harry Evans e Mary Soroka. Il padre infatti era gallese e gestiva un campo da golf, mentre sua madre era di origine, come si può intuire dal cognome, di origine ucraino, Carpazia, ed era una benestante, perché proveniva da una famiglia che possedeva delle miniere di carbone. Stiamo parlando però di un matrimonio tormentato, molto tormentato, e soprattutto a causa del padre Harry, che era un alcolista, un maniaco del gioco d'azzardo ed anche di altri abusi, e quindi la sua condizione familiare, insomma, ha pesato moltissimo sulla vita di questo uomo fragile. Molti lo definivano anche il jazzista più bello di sempre, o quantomeno il più colto, perché poi vedremo, lui sviluppò la sua ricerca passando prima per i classici e per lo studio di importanti musicisti di musica classica. Ebbe un fratello che Harold è più grande di lui di 2 anni, a quale lui fu molto legato, quindi questa figura del fratello lo ha caratterizzato, e lo vedremo anche in seguito, lo ha segnato, così come, e purtroppo anche la morte del fratello, e così come la morte tragica di una sua fidanzata. Noi adesso partiremo con un brano che fa parte di un album non registrato da lui come, diciamo, come leader, ma registrato con Miles Davis. Fu un incontro, stiamo parlando quindi di uno splendido album, forse uno dei migliori di Evans, che è Kind of Blue, quindi blu inteso come nostalgia, blu inteso non come colore, ma quindi un tipo di nostalgia. Quindi anche qui un bellissimo album con dei risvolti intimi, dei risvolti intimisti, ecco, forse è meglio dire così, che è rimasto un po' tra i migliori 100 album jazz di sempre. Quindi quello con Miles Davis, tutto questo accadeva nel 1959, fu un incontro veramente importante per tutti e due, sia per il trombettista sia che per il pianista. Quindi questo bellissimo album ha poi dato seguito ad una serie di standard che tantissimi jazzisti hanno ripreso nel tempo. E adesso vedo se è possibile andare. Sì, andiamo, anche se va un po' in sottofondo. Ci gustiamo questo... Cosa ci gustiamo? Il primo So What o cosa? So What. che è un po' un peccato interrompere, però insomma le esigenze del programma, anche perché il brano dura 9 minuti, adesso ci parliamo un po' sopra per passare poi a un altro assaggio musicale. Dicevo prima che questo Kind of Blue è uno degli album d'esordio è Miles Davis il leader, ma Bill Evans è al pianoforte. E, ritornando un po' alla vita di Evans, dicevamo dell'importanza, no, del fratello maggiore di 2 anni, perché importante, perché comunque il fratello iniziò a suonare il pianoforte e lui naturalmente, siccome la madre si era separata anche dal marito, cambiando, dal padre di Evans, cambiando anche città, perché andarono a vivere a Somerville insieme a una zia, quindi i ragazzi cominciarono un po' a suonare e naturalmente aiutato anche per l'emulazione del fratello, Bill, che era ancora piccolo, strimpellava un po' ciò che il fratello suonava. E poi insieme quando furono un po' più cresciuti, iniziarono entrambi a studiare il pianoforte. E la loro prima insegnante fu Helen Leland, ed è importante perché Evans ricorda questa in più di un'intervista, ricorda questa insegnante che iniziò, che in pratica lo fece avvicinare allo studio del pianoforte, ma con un approccio non eccessivamente tecnico, quindi magari tenendolo giornate lì a imparare arpeggi oppure scale, e questo lo aiutò molto, lui ha detto più di una volta, e cominciò subito a leggere gli spartiti, e nonostante tutto però insomma la sua insegnante reputava il fratello maggiore più bravo di Bill, e quindi poi cominciò questo ragazzino a 7 anni anche a approcciare altri strumenti come il violino, il flauto, l'ottavino, ma nonostante questo poi abbandonò un po' tutti questi strumenti per continuare con il pianoforte. Molti esperti dicono che tutto lo studio anche di questi altri strumenti lo abbia influenzato poi nel caratterizzare al meglio il suo stile. E rimane celebre un po' una frase che è fatta durante un'intervista del 65, in cui Evans dice che una sera, le sue parole, una sera mi sono avventurato in Tuxedo Junction e ho fatto un piccolo ping, come lei sa, che non era scritto, ed è stata una bella esperienza far musica che non era scritta. Ciò iniziò a farmi capire che cosa volevo per fare della musica. E il ping quindi è un po' una un'escursione fuori dalle righe, no? Che il jazzista fa, è un po' la caratteristica del jazz, quella dell'improvvisazione, quindi nessun jazzista esegue lo stesso brano ogni sera, cioè ci sono delle linee che poi vengono sviluppate di volta in volta, e questa libertà di espressione, questa libertà creativa naturalmente fu la prima cosa che ammaliò questo giovane pianista, e così come sono stati importanti, come vi dicevo prima, è stato importante lo studio della musica classica, Bach, Mozart, Beethoven, Schubert e soprattutto Ravel erano gli autori preferiti da Evans, e questo suo amore naturalmente è continuato per tutta la vita, così come poi addentrarsi all'interno di autori, tra le note di autori importanti come Stravinsky, o lo stesso Debussy lo hanno aiutato, come dice lui, ad aprirgli la mente verso altri orizzonti. Dopo tutto questo studio, dopo tutto questo incamerare nozioni, stili, modi di comporre e anche sensazioni, dopo tutto questo lui decise di buttarsi un po' sul jazz ascoltando in radio l'orchestra di Tommy Dorsey e di Harry James. E tutto questo, insomma, lo trasportò all'interno di un mondo nuovo, ma noi adesso ci ascoltiamo un altro brano tratto da questo splendido album del 59 che vi dicevo è Kind of Blue. Abbiamo voluto dare un piccolo assaggio con questi due brevi, li abbiamo abbreviati noi, questi brani, no, di, The Kind of Blue di Miles Davis, in cui Bill Evans fa un po' da controaltare, se possiamo dire così, e comunque usa il suo splendido tocco nell'accompagnamento delle evoluzioni con la tromba di Miles Davis. E dicevamo, addentrandoci un po' nella vita di questo splendido artista, che a 12 anni, quindi molto presto, Bill prese il posto di un pianista malato ed entrò a far parte della band di Buddy Valentino. In quella band il fratello aveva abbandonato il pianoforte e aveva preso la tromba. E fu in questo periodo che Bill Evans smise di comporre e iniziò quindi l'approccio all'improvvisazione. In quel periodo le influenze jazzistiche che lo colpirono di più furono quelle di Nat Cole, che lui apprezzava molto, Earl Hines, Coleman, Hawkins, Bud Powell, George Shearing, Stan Getz e Miles Davis, naturalmente, di cui abbiamo detto fino adesso. E poi lui iniziò questa sua carriera, così come iniziano anche un po' tutti i grandi, cioè cominciando a suonare occasionalmente, quindi in balli, matrimoni. Addirittura dice che all'inizio lui guadagnava un dollaro l'ora, e questo però lo allontanò un po' dalla scuola. Però insomma la musica era quella che voleva fare, e quindi continuò con altri due amici, formò un trio, e dopo diversi successi incontrò Don Elliott, con il quale poi avrebbe registrato più tardi alcuni album. Fu quella probabilmente la conoscenza che segnò in maniera indelebile la sua carriera, insieme anche al bassista George Platt, che cominciò un po' a introdurlo nel mondo delle regole dell'armonia, perché voi sapete meglio di me, chi ci ascolta, comunque i cultori di musica di jazz, sanno che alla base un po' c'è appunto lo studio dell'armonia, sia per poi poter improvvisare che sia per poter comporre. E comunque insomma stiamo parlando di un ragazzo che era completamente immerso nel mondo musicale, ma nonostante questo, però, nonostante la grande passione per la musica, lui riuscì a terminare gli studi, e nel 1946 si iscrisse in Louisiana alla Southeastern Louisiana University e vinse anche una borsa di studio proprio in musica. Studiò musica classica con diversi importanti artisti e soprattutto composizione con McGee, che naturalmente poi si sarebbe detto, insomma, che questo incontro, questo maestro lo ha influenzato molto per lo stile compositivo. E siamo durante il terzo anno del college. Evans compose un brano che poi è rimasto un po' nella storia, è diventato uno standard, e che è Very Early. Fu veramente un primo grosso risultato. Noi invece adesso ci ascoltiamo da uno dei suoi album, forse l'album che lo fece conoscere maggiormente, che lo portò un po' ai grandi livelli, nonostante ne avesse incisi già 6 o 7, tra cui, perché il suo primo album fu New Jazz Conception, Everybody, Big Bills, Diggs, Bill Evans, fu il secondo nel 58, nel 59 On Green, Dolphin Street, nel 59 ancora The Ivory Hunters, ne incise 3 o 4. Lui ha avuto una produzione incredibile, con etichette diverse, tra le quali soprattutto la Riverside è quella con cui ha inciso tantissimo, così come la Milestone. Poi insomma ha avuto anche una serie di, quando è diventato un po' più famoso, con la Verve, ma ecco, la Riverside è stata la prima. Noi adesso ci ascolteremo un brano dove, da questo splendido Sunday at the Village Vanguard, e qui insomma dove beccate estraete bene da questo album, ve lo consiglio vivamente, ascoltarvelo tutto magari in una serata un po' piovosa. splendido album che, ripeto, ha un qualcosa di magico anche, e che è un po' è il compendio un po' di un'amicizia importante che nacque proprio a ridosso della registrazione di questi due album, e cioè appunto Sunday at the Village Vanguard e Waltz for Debbie, entrambi del 1961. Sì, perché Davis aveva iniziato un po' a frequentare i palcoscenici jazzistici, soprattutto stando un po' al seguito della famosa cantante Billie Holiday. E infatti entrò nel gruppo e fece un tour di 3 mesi con la cantante Billie Holiday, e quindi qui cominciò un po' a farsi notare su palcoscenici importanti quali l'Apollo Theater ad Harlem, e in città come Philadelphia, Baltimora, ma stessa Washington. E stiamo parlando di un gruppo che aveva all'interno Jimmy Nottingham, Frank Rosolino, Jim Hatton, sono tutti nomi importanti. E infatti lui con Hatton continuò anche dopo la chiusura del tour con Holiday, e continuò a collaborare suonando in duo in diversi club. Vi abbiamo detto anche dell'incontro importante che ebbe con Miles Davis, che in quel momento rappresentava un po' la punta avanzata del jazz moderno dopo la morte di Charlie Parker. Miles Davis era sicuramente un pioniere, un po' un'avanguardia che stava facendo ricerca nel mondo jazzistico. Quindi dopo aver inciso lo splendido album Kind of Blue, uscì dal gruppo di Miles Davis e iniziò da qui la sua carriera con musicisti importanti con musicisti che poi hanno segnato veramente la sua vita, soprattutto Scott LaFaro, che abbiamo ascoltato nello splendido assolo di contrabbasso nel brano che abbiamo ascoltato prima, e Paul Motian. Quindi è questo il trio che si forma e che rimarrà un po' nella storia del jazz, questo trio è rimasto nella storia del jazz moderno. Purtroppo nel 1961, 10 giorni dopo aver registrato questi due splendidi album, quindi dopo aver registrato Sunday at Village Vanguard e Waltz for Debbie, LaFaro morì in un incidente stradale. E qui cominciano non dico i guai, ma comunque i contraccolpi psicologici che poi hanno pesato tantissimo sull'attività e sulla vita di Bill Evans, uomo fragile anche nell'aspetto. Se voi andate un po' su internet e vi vedete alcune foto degli inizi, vedete questo splendido ragazzo con gli occhiali ripiegato un po' sul suo pianoforte, e quindi una fragilità che viene fuori anche dal suo aspetto, molto elegante. E dicevo, questa morte lo segnò tantissimo, tanto che poi da questo momento in poi entrò gradualmente, ma purtroppo in maniera spietata, nel giro della droga. Questo per tentare di alleviare un po' le sofferenze che provenivano dalla perdita di questo amico, prima che collega. Quindi insomma si isolò per circa 6 mesi, e dopo un po' di tempo lui cercò di rimettere su il trio, E in effetti nel nuovo trio entrò Chuck Israel proprio in sostituzione di Lafaro. Però noi rimaniamo sull'album, su uno dei due album che io ritengo i migliori, ma insieme a me c'è una schiera di critici che appunto ritengono Sunday at the Village Vanguard e Waltz for Debbie i due capolavori di questo trio. Thank you. Abbiamo fatto ascoltare questo brano quasi per intero, anzi mancavano pochi secondi alla fine, anche perché meritava, no? E vi diceva un po' del carattere intimista del grande Bill Evans. È veramente, bisogna dire questo, bisogna usare questi aggettivi per un pianista che ha un po' capovolto quelli che erano gli stilemi dell'epoca, e l'ha veramente, ha inventato, no, anche il trio, come vi dicevo prima. E questo brano fa parte appunto di uno dei suoi più grandi lavori, che è Sunday at the Village Vanguard, in cui c'è un po' il trio per antonomasia. E poco prima, appunto, qualche giorno prima, qualche settimana prima della scomparsa del suo bassista, contrabbassista Lafaro. E poi, insomma, stiamo parlando di un artista che è stato più volte, è diventato veramente un punto fermo del jazz. Ad esempio, Waltz for Debbie è diventato veramente uno standard replicato da gran parte dei jazzisti moderni, e poi registrati anche da molti artisti. E pensate che Evans ricevette ben 31 nomination ai Grammy Awards, vincendone 7, e naturalmente la sua popolarità poi lo ha portato a essere incluso nella Jazz Hall of Fame, che è un po' l'Olimpo dei jazzisti. La morte del contrabbassista lo iniziò un po' al mondo della droga, che poi lo ha accompagnato per tutta la sua carriera fino appunto alla sua morte nel 1980. Ma purtroppo la morte, le tragedie sono state un po' la costante della carriera di questo artista, che sembrava volersi immergere un po' nel mondo della droga proprio per dimenticare, o per restare in apnea e dimenticare un po' i dolori, perché nel 73 e poi nel 79, nel 73 si suicidò la sua fidanzata Elaine Schultz, e poi suo fratello Harry, a cui era molto legato, si suicidò invece nel 1979, quindi un anno prima che Bill Evans poi morisse. Quindi negli ultimi mesi lui usò soprattutto eroina e cocaina, e tutto questo poi creò, naturalmente, come spesso accade, è spesso accaduto a grandissimi artisti, uno su tutto, Chet Baker, destabilizzò completamente la sua vita, non solo professionale ma anche finanziaria, e quindi sono stati momenti molto brutti quelli vissuti da Evans nell'ultima parte della sua vita. Eppure pensate che questo grandissimo artista incise come leader, incise ben 76 album, questo dal 56 all'80, che poi hanno fruttato alle varie case discografiche ben 15 raccolte, e come sideman, quindi persona o artista che partecipava i gruppi, insomma, incise 59 album con grossissimi, i più grandi, no? Abbiamo ricordato Miles Davis, con cui incise nel 58 Miles e Kind of Blue nel 59, ma Eddie Costa, Pepper Adams, Saeb Sihab, e poi Jimmy Knapp, insomma, Charlie Mingus, East Coasting del 57, Stiamo parlando appunto del un po' il gota del jazz newyorkese e non solo. E questo, tutto questo, dicevamo, anche questa tragedia, anche tutte queste tragedie, questo voler in qualche modo certe volte scomparire per dimenticare, è un po' la caratteristica che noi troviamo nelle sonorità di Evans, a cui io naturalmente adesso do ancora una parola, do ancora, anzi, ecco, già dalle prime note, insomma, anche questo ci porta un po' lontano. Era un brano dal vivo, con un po' tutte le incognite anche dei brani dal vivo. E mi piace, prima di concludere, ricordare una frase di un giornalista che mi sono appuntato, che dice che incontrando Bill Evans ci inoltriamo nel territorio abitato dai giganti, scopriamo il miglior trio jazz mai esistito nella formazione con Evans al piano, Paul Motian alla batteria e Scott LaFaro al contrabbasso. Sì, è vero, questo credo che sia un po' la caratteristica. Di certo Bill Evans viene ricordato, l'anno scorso sono state il 15 settembre, è la data della sua morte, 15 settembre dell'80, nonostante un po' la pandemia ci sono state tantissime celebrazioni nel senso proprio culturale a favore di questo splendido artista, ma io credo soprattutto perché un po' ha incarnato ancora una volta l'aurea dell'artista, non dico maledetto, ma comunque sofferente, ripiegato un po' sui suoi dolori che attraverso la musica esprimeva tutto il suo sconforto anche. Una musica anche fatta di ricerca personale, perché poi Evans cercò anche di approfondire aspetti filosofici come lo Zen, che era un po' di moda in quel periodo newyorkese, ma lui teneva a sottolineare che aveva iniziato prima a sondare questi aspetti, appunto. Ed ecco perché collegamento un po' con la droga, questo aver subito anche la droga, ma non in senso creativo come l'ha attraversata Miles Davis, ma piuttosto come in senso proprio come rifugio per i grandi dolori vissuti anche nel corso della sua vita. Questo artista io lo ho sempre associato a un altro artista maledetto purtroppo, che è Chet Baker, che con la droga ha avuto tantissimi problemi. In fondo le vite di questi due giganti sono un po' correlate, sono in qualche modo unite da questi momenti così illuminanti, ma allo stesso tempo dei loro momenti bui nella vita. Questo volersi esprimere esclusivamente attraverso le note, attraverso i loro strumenti, è stato veramente, è ancora, risuona ancora nelle nostre orecchie e li rende quasi fratelli in qualche modo. Quindi il mio augurio è che anche voi adesso, dopo aver, magari c'è qualcuno di voi che non aveva ancora, non si era ancora avvicinato a questo artista, il mio augurio adesso è che magari lo faccia, che vada un po' ad approfondire. E noi ci lasciamo questo brevissimo, perché comunque un'ora per parlare di Bill Evans è sicuramente poco, però insomma è un piccolo assaggio che spero rimarrà nelle vostre orecchie, nella vostra mente. E dicevo, per concludere un po' questo piccolo incontro, noi facciamo ascoltare un brano che fa parte dell'album che Bill Evans e Chet Baker hanno inciso insieme. Quindi noi li troviamo insieme in questo album, che anche questo ve lo consiglio con grande trasporto, che è Place the Best of Lerner and Lowe, appunto Chet Baker e con il pianoforte di Bill Evans. Arrivederci, buon ascolto. Thank you.